uscirà più dopo quando rientri in novena. Ah, facciamo di cercare. Sì, Atanassi, tu che lo che vuoi che la peggiarone, chissà che... Cosa ti scende? Ha detto che è gemello di quello che hai detto tu, Gigi. Caparoccia. C'è una zucchina, sa, che c'è volante. Piano piano, a me mi ha distanza il veraggio. Avanti, dai. È positivo. Cava, cava. Attenzione Gigi Vulcano. Gigi Vulcano c'ha la volante davanti e mi sa che... Lo ascolti a Sandro Gigi? Se non mi dire che stai entrando dentro la roba della volante, no? Oh. Può modulare che c'ha la volante davanti, capito? E poi dico, magari ti entra dentro la radio. È sensato. Ok, vai, esatto. Ok, tu come mi ascolti di radio, sempre le solite? Sì, un po' più strano oggi, eh? Un po' più strano, ho fatto un po' qualche accorgimento a questo microfono, non so che è peggiorato, così come la media. Diciamo che non è buona, andava meglio prima. L'abbinamento che avevi prima, cosa hai fatto? Hai tolto l'abbinamento che avevi prima? Non è uguale, è diversa, Sandro. Sì, no Gigi, lo so, è diversa. Ho soltanto provato a cambiare la capsula, sulla tutta lì da un microfono. Però adesso mi devi dire, c'è la modulazione chiara e saturazione, com'è? No, è saturazione, non è chiara la modulazione, non è bella, capito? Non è bella, è compressa la radio. Ok, vediamo un attimino, provo a passare un attimino qua, così com'è? Mi sembra mio, sono altro passaggio più lungo. Ok, vediamo un po', prova, vedi, 4, 7. Oh mio, così è buona. Così è chiara, limpida? Oh, è vero, fa che? Sì, ha migliorato parecchio. Quando? Ehi, dimmi, Giampa. Oh, ciao, come ti ho trovato a tutti. Guarda quando mi portare già per poco fa. Allora, mi dice, ok, ho visualizzato. Adesso qua, però, io non so se tu adesso sei attaccato, siamo dove le cosine stessi di più, no? Mi fa come un mulino, hai capito? Tu vai e come va a iniziare in situazione? No, non ho fatto niente, soltanto... diciamo sto passando al Mikey Gay, non sto facendo altro. No, così è buona, ciao Giampa, così è buona Sandro, ok, ho passato leggermente un po' il Mikey Gay, evidentemente è un tipo di capsula diciamo che reagisce molto di più e quindi la modulazione va in saturazione, tutto lì. Sì, è buona, così non so Giampa è vicino cosa, non lo so, Vedi un po' Giampa, io qua ascolto bene, io sono il tratto di Via d'Italia. Yeah, ok, no, ma poco fa lui ha fatto passaggi con me, era chiara. Anche io non so qua se ha fatto qualche cosa, perché qua ho sentito un po' un rumorino, sento che fa, cosa del genere fa, però chiara è chiara la popolazione. Ma poco fa questo numero ce l'avevi, Sandro, capito? Aspetta un attimo. Io non lo sento il rumore, forse perché siamo lontano, Però va bene, così come adesso l'ascolti lontano. Prima non mi piaceva, adesso va benissimo. E perché non parte il media, ok, lo dici. Vabbè, poi ci siamo in DJ. Vivo Giampa, arrivi anche tu, sei abbastanza chiaro, pulito. Voglia. Giampa, vai, riprendo io, faccio un attimo del bianco. Ciao Gigi, ce la riascoltiamo domani mattina sui cucine. Ciao Giampa, ben sentito anche a te. A più dopo sui cucine, dai, faccio un attimo del bianco. Oh, fa che dai, ciao. Ok, ciao, fa che. Tutte le prossime. Ok Gigi, dai, niente, ho voluto provare un attimino e tutto quanto. Parroccia, è vero, si sente, adesso sembra di sentire questo quando schiaccia la portante o questo ronzio di rumorino. Ronzio di rumorino, se non è diciamo come forse diciamo l'alimentatore qui che assorbe. Se lo sento pure io, è vero, è vero, adesso lo ascolto anche io, prima non lo sentivo in lontananza, vabbè, là non sentivo, invece adesso quando, anche se non parli, come il ghiaccio da portata si sente. No, non lo so, mi devo mettere le cuffie a sentire un po', dai. Ho mangiato di qualcosa, mi sa, però, ho detto probabilmente sia così, sai. Ok, vediamo un po'. Lo senti ancora? Vedi un po'? C'è sempre, non... Ma mi sembra leggermente di meno adesso. Un po' di meno, un po' di meno. Ok, vediamo un po'. Vedi un po' adesso? C'è sempre, sa, c'è sempre, però... La radio è pulita adesso, Prima invece la radio non era pulita. Adesso la radio è diventata pulita e c'è questo rumore appresso. Non lo so, magari è questione di mic, dai. Questione di mic, magari questione di assorbimento. Allora, questione di assorbimento dal mic, tutto lì. Ti mandava bene, perché non hai lasciato come la capsula c'era prima, Sandro? Ehi, vabbè, dai, ci rimetto di nuovo quella là, dai. No, è un piccolo esperimento che ho voluto fare, tutto lì, ma evidentemente non gli va bene. Va bene, metti l'altra. L'altra che c'era prima che andava benissimo, una bella radio. E già lo credo giallo per una bella radio. Ok, dai. Va bene, dai, signori, vi lascio. Ciao Gigi, buon rientro, buon tutto. Sandro, dai, tanto mi mancano un 200 metri, sono arrivato anche io in deposito. Ciao Giappa, anche a te, dai, che tanto sto arrivando in deposito e devo staccare tutto. Ciao, quello bene. Ci sentiamo, stai bene. Ma che a me mi serve sempre un Colt, se ti capita qualche peschericcio, un Colt mi serve a me. Come si dice? Colt. Un Colt. Ma non mi dia la mano, Gigi. Qua. E dimmi un po', a me come mi ascolti? Comunque, ci vediamo. Ma stanno benissimo, niente da dire, cioè sei rinato, prima essere itili dovresti arrivare a Bomboletta di radio a parte segnale, ma sta lucendo bassissimo, peggio di chi dice che ti aspetta da lontano. Dimmi a me, ridammi un rapporto a me di segnale e di radio. Allora, Santiago 8, radio 105. A posto, non ci sono problemi. Benissimo. Adesso se riesco prendo un tempo, boh, io riprovo un quello. Ma sicuramente migliorerà, con gli apparati spingono un M, fa più bene. Poi come avevo già detto, il M non esce bene in questo tratto. E da poi quel difetto di difetto di strano qua, però ma se tu sai le leggi che prefacchè, fa quello da quella fare in M. Sì, sicuramente, dai, non sono nati per quel tipo di scorsa. Se ti capitano, prenderli, sicuramente vanno molto meglio. Ok, comunque ti posso dire che hai migliorato tantissimo. Questa anzi è abbastanza forte pure come radio, molto più forte dell'altra. Attenzione, canale 10, intanto facciamo una chiamata generale, se c'è qualcuno che vuole rispondere, così chiediamo anche un rapporto di radio per l'amico Tone. Attenzione, 10, chi vuole entrare? Sa che tutti si sono allontanati, andare a caricare. Aspetta un attimo. Adesso provo ad ascoltarmi con l'apparato, ora se sempre se non rientro, così mi sento un po'. Via, dì una cosa, ma Antonello Ditti, che io non l'ho più sentito, che fine ha fatto? Ora, rientraci. Ma io ci vedo che sta spingendo, perché sta dentro un parecchio. Hai nel caso, ma roba vicino attaccata c'è. Cioè. Aspetta. Adesso un po' con un paio di cuffie, così mi penso dopo l'apparato. Tecnico ai Gianni Giaguaro può essere? Gianni non lo so, non ho più sentito. Non fermiamo, lo so. Ah, ok. Trova la Donis adesso. Cioè, come fa nome già lo senti, ma la sicurezza non lo qua. Spieghi un po' un paio di cuffie, così mi collego le cuffie da quell'altra parte, in modo che non rientri. Così mi ascolto, c'è quello o l'altro. Secondo me dovete anche abbassare un peluzzino, questo è pure troppo alto. Ho sollevato anche l'antenna, come parole, il microfono, ma il microfono numero è pure alto, già entrando ormai. No, non toccare le regolazioni, sennò quello che abbiamo fatto non serve a niente, perché quello della Dunis è sensibilissimo, se tocchi appena il micchietti strappa tutto, ma abbiamo fatto le regolazioni eliminando le frequenze di disturbo. Attenzione 10, chi vuole entrare avanti? Ora. Oh, sì. E cos'è? Allora io sono sempre quello là. Sto parlando di cuffie, le cuffie guardano lo stesso rientrando. Sì, c'è un rientro di brutto. Se copi la stazione di Sassari. Ora, sì, prova. Sì. Sì, prova un po'. No, con questo sembra che in poche parole è più poco spinto. No, sembra migliore, con i toni, cioè più toni bassi, così è. È più naturale la voce. Ma non hai toccato niente, il volume non l'hai toccato, no? Ma sto toccando così, sempre il Nike è uguale, gli ho lasciati come erano prima. Però con Sassari mi sembra troppo male, spero. Sì, anche la pandemia. Il problema lo sai cosa è tuo, che tu ti cambi di distanza del microfono, cioè a momenti, per esempio in questo momento stavi leggermente strappando, come alzavi il tono della voce o ti avvicinavi, non lo so, dovresti stare molto attento o tenere la stessa distanza o tenere la stessa tonalità di voce, perché sennò te lo faccio abbassare ancora un peluzzino per evitare quel problema. Sì, ho capito, ma forse sarà dopo le cuffie, sicuramente. scusa, scusa, ma cosa forse muffa un po'? Ma sente qualche tipo, come che sta friggendo qualcosa? Sì, no, sento io una frequenza di lì, a 2005 c'è un... No, non so se sia, dipende dall'apparato o da qualcosa che c'è vicino. Cioè, ma qua è importante. Allora, importante. Devo passare le cose. È un fischietto a 2500 Hz. Aspetta un attimino, però... Non puoi toccarlo qualcosa, lì c'è qualche, secondo me c'è qualche problemino di rientro di radiofrequenza. Lo sento anche io, però è un piccolo rientro, sembra un inizio di innesco. Un fischiettino leggero, leggero. Prova, aspetta un attimino. Con 2000, abbassati appena appena 2000. Allora, adesso lo sta abbassando, guarda un po'. Adesso la metto. Allora, fai una cosa, senza parlare, schiaccia la portante e mi metti, mi fa le tre posizioni, non dire niente, me lo metti a metà e poi a zero, vediamo se te lo toglie con il fischio. Così a meno 12. Ah, fammi passare, adesso mi metti a meno 12 e poi lo mandi tutto a manetta, così me ne accorgo. C'è qualche altro problema di schermatura di qualcosa, perché ma che elementatore sta utilizzando tu? Io sto pensando a questo, eh. Un alimentatore già stabilizzato, eh. È un alimentatore che ha il voltaggio regolabile, tutto qua. È la 30 A, ma non è switching, è modello di quelli normali. Ah, non è switching, buono a sapersi, no, perché pensavo fosse un problema degli switching, che hanno dei problemi. Quante, che potenza sta usando l'apparato adesso? Ma adesso c'è un po' che prova sono a mio. Allora, potenza, adesso c'è un po' sguardo, ma non di lì, prova a sollevarti, ma guarda un po', così a manetta. Me ne scambio. Tutto. Questo è un rientro di radiofrequenza, adesso mettimi al minimo. Adesso ce l'ho, la reference power è la potenza, scusi. Ora non c'è dubbio, vero? Ah, ma il telefono ti sta squillando? Tondi qui ti dico qualcosa. Attenzione, 10, chi vuole entrare? Come su la terza, quarta sacchetta, proprio rumore. No, allora, quello lì sono tracciato, stanno rientrando radiofrequenza che sta rientrando, infatti non potevamo modificarlo con l'equalizzatore, pensavo fosse un problema di saturazione di qualche frequenza, ma non c'è niente, quella è radiofrequenza, a 2500 Hz ce l'hai quel difetto, comunque niente, tieniti basso di potenza, se non ti metti un accordatore fai danno. Infatti c'è stazionari, c'è quello che dove è. Era quello. Un accordatore, cacchio, è una cosa semplicissima ma ti risolve un sacco di problemi. E qua ti bruci l'apparato e sono soldi. Devo prendere un ferro, l'accordatore è un po' scritto, lo controlli. Non so se l'avevo smontato. Ah, guarda l'autocostruito, per quello che costano 30 euro te lo compri nuovo. Beh, lo faccio la lettera in 30, sì, quello che stiamo lì è questo. Poi la cosa è che antenna c'hai tu? Non te la stupo, solo che ti era acceso un lampo, cazzo, qui gli avevo rifatto la carica. Siccome c'era la carica di ferrozza, era il lampo come acceso, sicuramente l'ho fatto con la strada più lunga, mi era stazionare qui, se no non ti stazionare qua. Io l'avevo fatta una volta, ma chiamo da 2,5 ci vuole, tutto a volto, contro le sfide vanno contate, adesso non mi ricordo quante ce ne siano, poi una quarantina c'erano le sfide, devi rispettare esattamente i valori esatti, io l'avevo fatta perfetta, e mi sono fatto dare il cavo di pari diametro, non so se era 2,5, adesso non mi ricordo, e l'avevo acquistato, è uscita nuova, perfetta, stazionarie basse, 1,2. Rispettate al 100%, sai quanto ti cambia, ne metti due o tre più di sfide e cambia completamente, quello è un'impedenza, deve essere per forza 52 ohm, se tu ne metti due o tre di sfide magari a circa 52 te ne dà 65 e ti cambia totalmente le stazionarie, cioè rientra la radiofrequenza, ti modifica completamente i parametri, per cui ci devi mettere un accordatore. Però considerando che tu sei a Itiri, io non ho capito perché arrivi così in basso, qua c'era coso, come si chiama? Sia Gianni che Antonello, non parliamo di Antonello, arrivava una bomboletta 9,15 arrivava, tu sei 9, non capisco per quale motivo. Roberto? E dimmi sa. Ok, con le scuse, dammi un attimino che sto provando un mic qua. Sì, prova a parlare. Ok, vedi un attimino, prova, 4, 7... No, la voce è chiara, il livello microfonico va bene, ottimale, la voce però un pochettino, la sento un pochettino metallica, predominanza di frequenze medie, non è lineare, non è corposa, diciamo, non è naturale, dai. Però è 5 la radio. Ok, allora aspetta un attimino, provo un attimino sul mic gain, vedi un attimino passato il mic gain. No, non è questione di mic gain qua, il livello andava bene, non stavi distorcendo. Il problema è soltanto di frequenze, cioè di risposta di frequenza diciamo microfonica, cioè predominanza di tonalità medie, stanno predominando sulle altre tonalità, per cui i bassi quasi non si sentono. Ho capito, dai. Va bene, ok, dai, continua pure. Hai sentito attore, lo senti attore da Itiri? Non lo so, provo a farlo venire avanti. Poi avanti, lo senti a Sandro da portatore settore? Allora, a Sandro l'ascolto, sentiamo 3,5, magari 5. Non penso che lui mi ascolti, questa potenza, sicuramente non mi ascolta. Sentito Sandro? Ma guarda, riesco a tirarlo fuori con le pinze, proprio a livello QRM. Per cui è inutile chiederti un controllo di radio, no, perché abbiamo fatto delle regolazioni e hanno migliorato tantissimo, perché stavo uscendo molto male, adesso con quei discorsi di equalizzazione abbiamo cercato di trovare una situazione migliore. Dai. Ok, questo passaggio lo stando leggermente alticcio, abbassa un po'. Alticcio in che cosa? Di livello parlo, ma sempre alla stessa distanza tu parli al microfono, ti avvicini, ti sposti, perché a momenti sei molto alto, a momenti ti abbassi un pochettino. Magari capita che magari come mi muovo, magari mi avvicino un attimino, capita che magari la modulazione è più forte. Tu ecco, c'hai il processore inserito, o sbaglio? Sì, ho il processore inserito, ma se tolgo il processore, se non mi riconosci. Allora, guarda, adesso ho tolto completamente il processore. Allora, il processore ti attenua molto le frequenze acute, ti rende la radio un pochettino più naturale, però ti abbassa anche il livello, sicuramente, vabbè, quello era normale. Eh beh, è normalissimo, diciamo, il livello me lo abbassa completamente, mi abbassa, diciamo, cioè mi trasforma. Ecco, vedi, io adesso sono in cuffia e sento che lui reagisce tutto lì. Allora, se mi dai 2 secondi, piazzo un attimino la V908, te lo faccio sentire. Così facciamo la stessa lavorazione. Prova, rimani con questo microfono, scusa un attimino, abbassati un pochettino di livello, volevo dire una cosa, perché secondo me come stai alzando stai saturando un pochettino, abbassa un po'. Abbasso di che cosa? Il livello microfonico. Il livello microfonico posso andare a aggiustare sul mic gain. Ecco, guarda, così, vedi un po'. Sì, stai andando molto molto meglio. Poi sento, ma c'è il venturino vicino, qualcosa. Sì, beh, senz'altro sarà l'alimentatore, la ventolina dell'alimentatore. Di nuovo alto di radio, abbassati un pochettino ancora il livello. Allora, guarda, allora, così sono a 0, si può dire. Così sono a 1, a 2, a 3, a 4. Metti a 2. Allora, aspetta un attimino. 1, 1. 1, 2. No, 2 è troppo, allora, tra la via di mezzo, tra l'1 e il 2 metti. Allora guarda, così è tutto a 0, ma che sta facendo pressione il processore, capito? Il processore. Ecco, adesso è tra l'1 e il 2. Metti un po' la tonalità di voce, leggermente satura, ma poco poco. Se tieni una tonalità costante di voce va bene. Ok, prova col microfono 208 e poi mi sembra di entrato qualche d'un altro. Avanti, chi vuole entrare? Ciao Robert, buonasera. Sì, ciao Antonio, mi hai sentito. Senti un po' la modulazione di Tore da Itri, come l'ascolti tu, Antonio? Tore da Itri? No, devo provare se lui. Adesso questo è Tore, ciao Tore, lui si aspetta a te, oiaia. Fate cosa entrate. Tore, ci sei? Tore, prova a sollevare un pochettino, là. Non è stato tanto, mettete un miserebbe. Buscami uno, vabbè, FM. Ti serve? Non chiedere. Sì, mi serve sì. Il finale c'è, mi serve solamente il trasmettitore, basta, c'è un finale. Tore mi ha detto me lo procurava, invece mi sembra che se l'è inventato. Quindi automaticamente, anche se non è DB non me ne frega niente. C'è il finale da quell'altro lato, mi serve solamente il ricorso, mi serve altro. Il pilota, ma là, se c'è un finale da 40 watt non devi superare più di 5 watt. Sì, c'è un finale da 40 watt, esatto, sì. Che cos'è, che finale? Io non so, il trasmettitore era DB. DB da 40 watt, DB faceva il K100, ma era 100 watt, 40 watt non ne conosco. C'è il finale da parte, c'è, capito, il modello della DB è diverso. Asturica, aspetta, dice le cose sul trasmettitore. Il trasmettitore nuovo, la SDG nuovo in scatola, utilizzato pochissimo ma lo tengo, mi servirà a me, dai, no, non lo prendo. Tore, ci sei? Tore, se mi ascolti c'è qualcuno che sta mettendo della musica, deve essere piaciuta la musica e sta un po' disturbandoti, se riesci a sollevarti un pochettino, se no mi dispiace. Otto, due, zero, solo la scheda questa. La scheda. Ah, vai, quello è il prepilota. Cioè, c'è pilota, prepilota e amplificato. Tu c'hai la, il secondo stadio, dai. Sì. Dimmi. Senti. 8-2-0-7-0-6. Così c'è scritto. Il finale invece l'ha fatto apposta, ma non c'è da niente qua. Che il finale è legge MRF 209, cos'è? Che finale va? Che finale è MRF cos'è 209, dimmi il codice. Dai, cosa ne so, lo guardo dentro con la mattina. Oltre lo faccio vedere, guarda, poi tutto il tempo lo faccio vedere, faccio prima. No, solo per capire quanti vatti tira fuori quella. Ma c'è solo la scheda, è tutta l'alimentazione? C'è la scheda di lineare in pratica dentro, capito? Dopo presente c'è la scheda di lineare, da 40 watt massimo, non di più. E a te mi sembra c'è Sandro, avanti Sandro. Scusa Sandro, lo stai andando male, togli il compressore del microfono, mettilo low, posizione low. No, aspetta un attimino, c'avevo il processore, questo deve andare senza processore, senza processore, ok, vedete? Ma stiamo parlando dell'apparato o del microfono? No, vabbè, ho tolto il processore dell'apparato, perché se metto il processore tolgo fuori il compressore dal microfono e sono con l'equalizzatore. Il compressore del microfono che posizione è? Low, media o high? Allora il compressore adesso è media, allora adesso è low, media e ping al massimo. Ecco la posizione low, bassa. Ok, così è low. Però non sento, vediamo un po', sento un ronzio. Sì, lo sento anch'io, c'è un rientro di qualcosa. E come si chiama? Sei un po' cupo, dovresti sollevare le tonalità, bisogna fare delle prove. Allora, aspetta un po', vediamo un po'. Troppo assorbimento, troppo assorbimento, ok. Questo è disgraziato. No, quello ci vuole prenderci, bisogna prenderci tempo con l'equalizzatore, con il microfono, perché fa perdere un po' di tempo, anche poco fa con l'amico Tore. Vediamo se c'è ancora, Tore ci sei ancora, che c'era qualcuno che stava disturbando. C'è un'altra scheda un po' di quello che c'ho io, di miglia del fuori. Al finale c'è 2N6082 e poi affitto, gli ho cambiato altre cose, il 4044 che sono uscito per un anno, gli ho messo proprio il PLL, e quando vai a toccare col cavo se, fa, a volte quando giri, come si chiama, fa look oppure normale, però il dato non sa quello per niente, c'è il transistor attaccato al 4, quello piccolino, il tipo 31C che scalda come un coso, scalda troppo, e quindi eventualmente incontro quello. Due, la correa, la correa, la correa, la correa. campo della lunghezza, metto le, tutto quanto come detto, non c'è stato la base con la cosa, poi appena mi tiro sto cinturino, mi compro un bel trasmettitore FM professionale cinese, con frequenze del tutto, più trasmetto, a me non devo fare che la niente di suo, a un certo punto ognuno c'ha, oh mamma mia, a fare così, Roberto ha chiuso. Ehi. Siamo un po' bravi. Mi spiega di me. Qui oggi sta provando un po' di scuola anche. Già lì è andato. Ho rifatto due o tre gatti. Cava cava. Vabbè dove ce ne stanno. D'accordo amico mio, c'erano i nuovi del gruppo punti radio, se mi faccio un po' di radio mi faccio direttamente per la UHF dentro, dato c'è la 12 e la 5 qua, ci mettono mi faccio un po' di radio per la cosa per i 4-3, me la metto qua sotto e così me lo utilizzo a casa. Non ho capito con i fattori, così me lo metto a posto e me lo conservo.